2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ecco a voi la puntata del 17 marzo 2012. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. E ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la tecnologia ci cambia la vita. Oggi iniziamo da qualche numero, più che da alcune considerazioni su come la tecnologia ci cambia la vita, ma anche i numeri in qualche modo poi ci aiutano a comprendere quanto il settore tecnologico anche in Italia cambia le nostre vite, il nostro lavoro. In settimana Assinform, l'Associazione Italiana per l'Information Technology, ha presentato i dati sul mercato 2011 e le previsioni per il 2012. Provate a indovinare, sono dati positivi o negativi? Allora, l'ICT lo scorso anno è calato del 3,6% e quest'anno continuerà a scendere, ma ad un ritmo più lento. Assinform stima un meno 2,2% per il 2012. Cambia un po' la prospettiva se si contano anche i nuovi segmenti di mercato, anche se potremmo dire la sostanza è sempre grigia. Ne abbiamo parlato con il presidente di Assinform, Paolo Angelucci. Assinform quest'anno ha modificato la rappresentazione del mercato per tener conto di tutti quelli che sono i nuovi trend del mercato ICT, scoprendo piacevolmente che rispetto alla vecchia rappresentazione il mercato è più ampio del previsto, cioè è passato intorno ai 70 miliardi di euro. Questo ha fatto sì che rispetto a una visione dell'ICT classica che sarebbe stata negativa di quasi 4 punti, questa visione nuova è quasi stabile, frutto soprattutto di questi nuovi segmenti di mercato che stanno esplodendo. Basta fare un esempio banale che sono i tablet e gli smartphone che stanno conquistando il mercato. Dei tablet non c'era, quello degli smartphone cresce del 30-40%, e questo fa sì che ovviamente la spesa ICT sia maggiore di quella dei segmenti classici. Quindi potremmo dire che il mercato è salvato da questi due apparecchi fondamentalmente? Allora, la parte hardware sicuramente sì, sulla parte invece software e servizi è ovvio che l'esplosione o comunque la crescita forte è relativa a tutte le applicazioni e a tutti i servizi che vedono questi dispositivi che coprono la mobilità e che coprono un uso intensivo del web che oggi viene fatto sempre di più ovviamente. Diciamo, rimodulando la domanda che ho fatto prima, potremmo dire anche che il mercato consumer sta salvando il mercato business più ampio? No, diciamo i trend sono abbastanza simili, nel senso che anche nelle imprese si sta assistendo a quel fenomeno che viene detto consumerizzazione, cioè sempre di più l'IT delle imprese usa i dispositivi finali, in particolare quelli mobili, per svolgere invece funzioni aziendali. E questo significa che anche lì si parla di maggiori investimenti, non solo in dispositivi, ma anche in applicazioni per il web, in particolare quello mobile. Sì. Quindi il trend vale per tutti e due i mercati. Sì, sì. Infatti, se dovessimo dare una visione d'insieme, il mercato sta facendo una poderosissima crescita delle infrastrutture, diciamo così, abilitanti. Anche i data center, la spesa per i data center in genere, per quello che si chiama il cloud, cresce. Adesso quello che servirà poi in futuro è la crescita delle applicazioni che sfruttano chiaramente questo tipo di abilitazione. Sì, naturalmente c'è chi potrebbe contestare questa crescita dei tablet e degli smartphone dicendo però la vera innovazione è fatta da altre tecnologie che dovrebbero entrare nella catena produttiva, nella catena logistica, nell'organizzazione delle aziende. Ecco, da questo punto di vista e anche dal punto di vista dei software che riescono veramente a trasformare, che potrebbero veramente trasformare le aziende italiane, che tipo di segnali vedete? Beh, i segnali sono indubbiamente positivi, nel senso che comincia a essere diffusa la convinzione tra le piccole e medie imprese che tutti i software che possono essere erogati dal ormai famosissimo cloud hanno un livello di accessibilità che prima era proprio delle grandi imprese. Quindi le piccole imprese innovative riescono a sfruttare questi fenomeni abilitanti a basso costo per poter crescere. Faccio un esempio: in un mercato che è stato stagnante generalmente l'anno scorso, il commercio elettronico è cresciuto moltissimo e molte nostre imprese, cito l'alimentare per tutti, cominciano a esportare sfruttando i canali elettronici e raggiungendo mercati che prima erano semplicemente impensabili. Quindi la vera novità, mi lasci dire, di questo tipo di nuova tecnologia è l'abbattimento delle barriere fisiche da questo punto di vista. Mi sembra quindi di capire che dai dati, insomma, dalle vostre analisi siete positivi, cioè siete contenti, insomma, di come va il mercato? Beh, no, contenti assolutamente no, perché quando un mercato è in cima davanti nessuno è mai contento. È chiaro che noi poi ci confrontiamo con un momento economico particolare che fa sì che non ci sia affatto da essere contenti. Il vantaggio di questa nuova rappresentazione è che ovviamente, mentre le aree classiche dell'IT, dello sviluppo di software, alla vendita di storage o di hardware, sono fortemente negative, al contrario queste nuove attività stanno in parte compensando la diminuzione precedente. Noi ci aspettiamo, è chiaro, nel giro di 1-2 anni una forte crescita per esempio dei servizi di dematerializzazione, la famosa agenda digitale. Esatto. Se questo governo andrà avanti come riteniamo e speriamo tutti quanti, e spingiamo tutti con l'agenda digitale, ovviamente ci sarà un grande investimento nel settore e un grandissimo aumento di efficienza sia da parte delle imprese ma anche e soprattutto dei cittadini, di funzioni da casa senza dover, mi lasci dire, andare in giro. Recentemente con un suo collega ho fatto l'esempio dell'ebook, dove l'ebook ovviamente, indipendente dal costo, c'è un risparmio temporale di andare a comprarlo, quindi il tempo che prima utilizzavo per andare a comprare sono potuto per leggere. E questi erano i dati presentati in settimana da Assinform. Più tardi parleremo di software libero, un modo ad esempio per rimodulare anche l'offerta, la domanda e l'offerta di software in Italia, un modo ad esempio per fare risparmiare da un lato alle pubbliche amministrazioni che potrebbero ad esempio avere soldi da investire in progetti tecnologici più evoluti. Cambiamo argomento, ci sono prospettive forse un po' più interessanti per il mercato delle telecomunicazioni, anche le telecomunicazioni soffrono e calano anche sul 2011, anche sul 2012, però sicuramente in prospettiva nei prossimi anni potrebbero esserci dei dati confortanti, perché gli operatori dovranno investire per risolvere un problema di cui abbiamo parlato recentemente con Franco Bernabè, che ha parlato come presidente della GSM Association, quindi l'associazione degli operatori di telefonia mobile di tutto il mondo. Uno dei problemi che sta affrontando l'industria degli operatori mobili è quello della gestione della rete, che con la crescita degli smartphone e dei tablet si sta congestionando. Beh, è esperienza comune incontrare durante il giorno problemi di navigazione perché le reti sono sovraccariche. Aumenta il traffico internet più di quanto la rete sia in grado di crescere in termini di capacità. Allora, uno dei modi per risolvere questo problema è cambiare la tecnologia, fare un salto di qualità. Allora, un passaggio tecnologico lo avete sentito dire più volte, cioè costruire network con la cosiddetta tecnologia 4G, LTE. Ne stiamo parlando da non so quanti anni, le prime volte che abbiamo parlato di LTE a 2024 era forse 4-5 anni fa, infatti il nome è stato coniato allora, Long Term Evolution, evoluzione di lungo termine. Ci siamo quasi arrivati, perché dal prossimo anno cominceremo a vedere reti di questo genere anche in Italia. Ricorderete che abbiamo partecipato ad una sperimentazione a Stoccolma, in Svezia, dove è nata la prima rete 4G europea, e ricorderete anche che abbiamo detto più volte che negli Stati Uniti esistono già reti di quarta generazione. Il problema del sovraffollamento, del sovraccarico delle reti, forse è un problema che le reti americane, un po' meno performanti rispetto alle europee, quelle tradizionali, diciamo così, in 2,5G hanno vissuto prima di noi, e quindi gli operatori americani hanno dato un'accelerata forte verso il 4G, tant'è che ad esempio l'ultimo iPad presentato recentemente è già uscito sul mercato americano, uscirà la prossima settimana in Italia e in Europa, dicevo, anche questo prodotto è 4G compatibile. Di questo abbiamo parlato, anche per capire quali sono le scadenze, con Franco Bernabé, presidente della GSM Association. In Europa non tutti i paesi, tra l'altro, hanno fatto le aste in questo momento, quindi ci sono alcuni paesi che l'LTE non ci sono le frequenze per lanciarlo. In Italia, come voi sapete, ci sono alcune frequenze che sono disponibili sperimentalmente. L'insieme delle frequenze verrà rilasciato dal 1 gennaio del 2013 e un po' dappertutto la situazione in Europa è quella di una lentezza nella messa a disposizione delle frequenze. Noi tra l'altro abbiamo avuto un incontro con il commissario Kroes proprio per dire che se verrà accelerato il rilascio di frequenze, tutti gli operatori sono disponibili ad accelerare gli investimenti nell'LTE. In Italia, come voi sapete, parte dal 1 gennaio del 2013, ci sono degli operatori già che stanno sperimentando l'LTE in Italia e quindi direi che al 1 gennaio, quando verranno rese disponibili le licenze, si incomincerà a erogare il servizio. Quindi di sicuro possiamo dire che semmai nasceranno alcune offerte commerciali prima di questo 1 gennaio 2013 saranno offerte che nasceranno sulla scia di queste sperimentazioni, quindi di queste aree e di queste frequenze che vengono utilizzate in via sperimentale in Italia. L'anno dell'LTE, LTE o LTE, che dire si voglia, in Italia sarà il 2013 e naturalmente, come sempre è successo, prima si partirà dalle grandi città per poi spostarsi ai centri di medie e grandi dimensioni, medi e piccoli e la campagna, eccetera, eccetera. Ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, vi aspettiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di reti congestionate, reti di terza generazione, quindi il 3G che dovrà diventare presto, il prossimo anno, 4G per aumentare la banda anche in mobilità. Perché? Perché ci sono troppi smartphone, questo è un dato positivo per il mercato, comunque ci sono molti smartphone, molti tablet che scambiano traffico, poi capiremo anche che tipo di traffico, con la rete. Effettivamente i problemi gli operatori li vivono sulle reti, ma li vivono anche i consumatori che trovano spesso la rete congestionata, traffico lento, e allora bisogna correre ai ripari. Ma partiamo da alcune considerazioni, cioè qual è il problema, lo abbiamo spiegato, ma quanto pesano questi dati? Ancora Franco Bernabé. L'ordine di grandezza è che il 10% degli smartphone, la penetrazione del 10% degli smartphone fa l'80% di traffico dati e tenuto conto del fatto, come ho detto stamattina, che gli over the top sono totalmente indifferenti rispetto alle esigenze della rete, sta creando in molti paesi delle situazioni di enorme criticità che è dovuta all'eccesso di segnalazione sulla rete. Cioè, le reti di telefonia mobile sono state create con certi principi base di funzionamento, per cui la rete di segnalazione serve alla segnalazione, no? Se la rete di segnalazione è costantemente intasata dalle richieste delle applicazioni che continuano a dire ci sei, ci sei, ci sei, ci sei in continuazione e non dalle richieste di segnalazione per creare la connessione, così come avviene nel mondo del mobile, il sistema non funziona più e quindi ci sono dei disservizi che vengono imputati agli operatori che invece sono responsabilità degli sviluppatori di applicazioni o addirittura dei produttori di handsets. Quindi c'è bisogno di cooperazione, perché oggi è il problema degli outage provocati dall'eccesso di segnalazione, domani sarà un problema di malware che viene trasferito con le applicazioni, dopodomani sarà un sistema di accesso ai tuoi dati personali residenti sul telefonino. Ecco, tutto questo è una cosa che l'industria vuole assolutamente evitare che avvenga, perché per tanti anni l'industria ha guardato alla sicurezza, alla privacy come elementi essenziali del rapporto con il proprio cliente. Franco Bernabè faceva riferimento ai cosiddetti over the top. Per over the top parliamo dei grandi operatori internet che stanno al top della rete, cioè stanno sopra le reti, quindi non sono proprietari delle infrastrutture. Facciamo un esempio: Google, che gestisce ad esempio anche YouTube, che è un grande utilizzatore di banda. Allora, il dibattito che da anni va avanti tra gli operatori che gestiscono le reti, che ci forniscono la connettività a internet, che sia connettività fissa della DSL di casa, che sia la connettività mobile, questi operatori naturalmente si lamentano con questi grandi fornitori di piattaforme, di contenuti sulla rete internet, perché dicono: noi dobbiamo fare gli investimenti per fornire capacità di banda all'utente finale, un sacco di soldi. E come avete sentito, ancora oggi, poi parleremo anche di tariffe e problemi di ricavi degli operatori. Oggi i dati rappresentano, quindi il traffico internet rappresenta una piccola percentuale dei nostri ricavi, ma la parte più importante del traffico generato sulle nostre reti, proprio a causa di questi over the top che non partecipano e sono indifferenti, continuano a fare business, ma del resto quello è il loro mestiere. Allora, uno dei problemi, avete sentito, è questo traffico di segnalazione generato dalle applicazioni, e ogni applicazione, ogni sistema operativo ha le proprie caratteristiche. Ci sono sistemi operativi migliori rispetto ad altri, applicazioni migliori rispetto ad altri. C'è all'interno della GSM Association, molto interessante, un gruppo di lavoro che si chiama Application Efficiency Working Group, che sta lavorando per determinare almeno alcune linee guida per far sì che queste applicazioni siano più efficienti nello scambio di dati con la rete, quindi in definitiva appesantiscano meno le reti e quindi in definitiva poi restituiscano all'utente finale un'esperienza d'uso migliore. Ma contemporaneamente devono essere costruite queste reti di prossima generazione, anche mobili, quindi il 4G, l'LTE, che costano dei soldi. Questi soldi da dove arrivano? Dai clienti. Ma il tema delle tariffe come viene affrontato dall'Associazione Mondiale degli Operatori di Telecomunicazioni Mobili? Franco Bernabè. Il tema dei prezzi è questo. È chiaro che oggi noi abbiamo l'80% dei ricavi sulla voce e il 20% del traffico sulla voce. Abbiamo viceversa l'80% del traffico sui dati e nemmeno il 20% di ricavi, esatto, sui dati. Ecco, questo deve essere ribilanciato, cioè deve essere ribilanciato il rapporto fra ricavi di voce e ricavi da traffico dati. E quindi deve essere ribilanciato. Quindi il problema del traffico dati da parte degli operatori va gestito con un sistema di tariffazione diverso da quello di oggi, perché altrimenti non ci sono risorse. Cioè, le cifre che vengono spese per adeguare le infrastrutture non saranno mai sufficienti, sì. A quel punto. Questa è dunque la situazione che gli operatori devono affrontare, e naturalmente la situazione che coinvolge anche i clienti, quelli che utilizzano gli smartphone, i tablet, i computer in mobilità tramite le chiavette, insomma chiunque utilizzi la rete di telefonia mobile, che oggi sta diventando una rete di dati mobili, anche se avete sentito quali sono le percentuali in gioco, i trend di crescita e i ricavi che mancano. Allora, il tema della rimodulazione delle tariffe è un tema interessante, importante, che riguarda tutti. Non è detto che le tariffe aumentino, è molto probabile che ci saranno prezzi diversi per servizi diversi. Speriamo non una maggiore confusione, un caos delle tariffe. Comunque, sempre dal punto di vista tecnologico, come si può tentare di risolvere in parte questo problema? Monica Paolini è una consulente che noi sentiamo da parecchio tempo, anche se una volta all'anno, perché la incontriamo in un'occasione molto precisa, che è il World Mobile Congress di Barcellona. Monica Paolini ha fondato negli Stati Uniti Senza Fili Consulting e si occupa proprio di reti senza fili. All'inizio quello che è successo è che gli operatori sono rimasti sorpresi da questo aumento nel traffico, e quindi quello che all'inizio c'è stato fatto è usare Wi-Fi per offload, quindi praticamente diverti il traffico su Wi-Fi. Però questo funziona fino a un certo punto, perché non c'è Wi-Fi dappertutto, perché anche Wi-Fi è limitato in termini di capacità. Anche perché ci vuole la collaborazione del cliente, no? Esatto, si può fare in modo automatico, però molte persone spengono il Wi-Fi semplicemente per una questione di batteria. Non è una cosa che funziona al 100%, però ci possono essere degli incentivi per usare il Wi-Fi, perché il traffico praticamente è gratuito. Quindi. Comunque, questa è una linea. L'altra linea è stata quella di, in paesi come gli Stati Uniti, dove l'uso all'inizio era illimitato, di cercare di limitare il traffico con l'imposizione di traffic caps e cose di questo tipo. Traffic caps sono dei limiti. Dei limiti oppure impone del limite sull'uso a livello mensile, oppure limiti la velocità durante certi orari durante il giorno. E questa è una cosa che riduce il traffico, però riduce anche l'attrattività e il valore del servizio, quindi è un'arma a doppio taglio ed è molto pericolosa. Quindi adesso gli operatori quello che stanno cercando di fare è di usare delle strategie un po' più sottili, cercando di attrarre l'uso e praticamente segmentare i diversi utenti. Quindi alcuni utenti possono avere priorità su altri che pagano di meno, oppure far pagare in modo diverso per diverse applicazioni, e quindi avere un approccio più flessibile, cercare di dare all'utente quello che di cui l'utente ha bisogno, allo stesso tempo cercare di proteggere la rete. Alcune di queste cose naturalmente stanno già accadendo anche sul mercato, quindi sono visibili, ma questo è un trend che vedremo ampliarsi nel futuro. Questo è 2024, ci risentiamo dopo le notizie del giornale radio. 2024. Riprende 2024 la nostra seconda parte, un benvenuto che ci ha raggiunto in questo momento. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile all'interno del servizio podcast di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, se volete raggiungerci ci sono varie modalità. Beh, c'è la nostra pagina Facebook, che potete trovare digitando 2024, oppure la nostra email 2024@radio24.it, o anche su Twitter potete cercarmi digitando anche in quel caso Enrico Pagliarini. Dunque, in questa puntata parleremo più tardi di software libero. Adesso abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Domenico Di Mola, che fino a poche settimane fa, potremmo dire, è stato responsabile della divisione ottica di Alcatel-Lucent vicino a Milano. Beh, intanto benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Tu ti occupi di tecnologie fotoniche. Certo. Che possono sembrare una cosa lontana dal nostro uso quotidiano. In realtà poi stiamo parlando di tecnologie che ci permettono di comunicare, cioè di far passare i bit quando io navigo su internet, quando trasferisco un file, in modo più veloce, giusto? Certo, in modo più veloce, ma soprattutto in modo più efficace. Cosa vuol dire? Vuol dire risparmiando in energia e risparmiando in costo. Quindi è sicuramente un elemento di miglioramento della capacità di trasformare e trasportare informazioni, ma anche migliorare la qualità del prodotto. Se dico che di fatto ti occupi, e tra l'altro ti occuperai, perché presto tu sarai vicepresidente di un'azienda che si occupa proprio di queste tecnologie in Silicon Valley, chiamata Uplink, se dico che ti occupi di fibre ottiche, corretto? Sì, mi occupo di trasporto in fibra ottica, quindi la fibra ottica è il mezzo, l'oggetto è il fotone e le informazioni che il fotone trasporta con sé, le nostre informazioni, le nostre telefonate, il nostro video, le nostre partite, la voce dei nostri cari e quant'altro. Senti, queste tecnologie già oggi permettono di trasferire dati in grandissima capacità, cioè con capacità incredibili. Ci fai degli esempi? Cioè, quando noi parliamo di sistemi che trasferiscono, che potremmo, insomma, giusto per banalizzare, paragonare ai nostri modem, sono dei grandi modem che stanno tra le fibre ottiche nelle grandi dorsali internet, che trasferiscono dati con che capacità? Che noi siamo abituati a megabit. Sì. No? La nostra unità di misura è il gigabit, è il terabit, cioè un milione di volte il kilobit. Quindi mediamente la nostra telefonata è un paio di kilobit, il nostro video un paio di decine di megabit. Sì. Quindi un miliardo di telefonate e probabilmente un milione di film o di nostri video. Queste tecnologie oggi vengono utilizzate sulle grandi dorsali, ma presto verranno utilizzate anche in casa nostra? Qual è l'evoluzione di queste tecnologie? Direi che dallo scoppio della bolla nel 2000... ormai il traffico mondiale è in fibra, le dorsali, ma anche il traffico metropolitano. Per esempio Milano, con la rete in fibra ottica, è una delle più dense e in termini di chilometri installato probabilmente la più grande d'Europa. Quindi la fibra è già nella città. Domani la fibra e la capacità di trasporto in fibra sarà a casa, sarà parte delle smart city, sarà parte del mondo che noi andremo a costruire. È un passaggio epocale quello che noi stiamo osservando e stiamo partecipando. E sarà a casa nostra, e domani i nostri apparati saranno collegati attraverso la fibra ottica. Ecco, prima di parlare degli apparati, volevo farti spendere due parole sulla necessità di investire in fibra ottica. Perché questo è un grande tema del paese, ma non solo in Italia. Devo dire che da questo punto di vista siamo più o meno allineati, siamo forse un po' in ritardo, però diciamo che il dibattito è acceso in tutti i paesi del mondo, cioè è necessario costruire nuove reti in fibra ottica che arrivino fino alle case. Certo. E alcuni dicono, beh, questa cosa si può fare con la telefonia mobile, con soluzioni di wireless, quindi senza fili, eccetera. Perché invece molti tecnici, quasi tutti, dicono che è necessaria la fibra ottica? Allora, ci sono due risposte a questa domanda. La prima è rispetto alla domanda è wireless o wireline, cioè telefonia mobile o telefonia fissa, chiamiamola in questi termini. Cavo oppure etere? Cavo oppure etere. Sì. Direi che la risposta è la fibra è necessaria per entrambi. Perché comunque la capacità dei nostri apparecchi telefonici continua a crescere e quindi le antenne che fanno capo a questi apparecchi, sempre più sofisticati, sempre più veloci, avranno delle capacità maggiori ma un'area di copertura minore. Cioè il rischio di vedere le nostre città popolate da pali con sopra antenne è grandissimo con queste nuove tecnologie. Qual è la soluzione? La soluzione è fare delle antenne piccoline, metterle su case, balconi, ovunque, e poi avere degli aggregatori, cioè dei posti dove questo traffico viene aggregato sotto il palazzo, messo in fibra ottica e trasportato in maniera efficiente. Dico una cosa importante, antenne piccoline e meno potenti. E meno potenti, cioè il risparmio energetico. Questa è una risposta a tutti quelli che dicono, ma no, anche per problemi di carattere sanitario. Ovviamente, quindi meno potenti, con coperture più piccole, ma più dense, e quindi a questo punto è necessario avere un hub locale che aggrega questo traffico e lo mette in fibra ottica. La fibra ottica consentirà di risparmiare energia, ma soprattutto consentirà di risparmiare un numero di central office, cioè case, garage dove mettiamo gli apparati, e spostarli sempre più lontani dalla città, quindi riducendo consumo energetico, footprint di anidride carbonica. Ah, perché tu ci stai dicendo che le tecnologie basate sulla fotonica, quindi le fibre ottiche, sono meno invasive rispetto al rame, cioè le centrali della Telecom che ancora oggi ci danno la DSL, certo, sono piene di server, di macchine, non solo di server. Di sistemi di condizionamento che consumano energia, che rappresentano probabilmente il 70% dell'investimento, non nella tecnologia, ma nel raffreddare la tecnologia. È un problema grave. Cioè, quindi con la fibra questa cosa si risparmia? Sì, ci sono calcoli che dicono che, per esempio, in Milano possiamo ridurre a circa un terzo il numero di questi locali che devono essere condizionati, devono essere mantenuti, consumano energia e costano alla popolazione. E quindi questo è un elemento che faciliterà la riduzione di quello che tutti chiamano il digital divide. Quindi, perché le tecnologie saranno meno costose e più disponibili per tutti. Quindi gli operatori, in teoria, dovrebbero essere i primi in un contesto legislativo e di regole chiare. Ad essere interessati a queste tecnologie. In un contesto in cui l'investimento è chiaro e il ritorno sull'investimento è determinato da regole chiare, definite e orientate al business. Chiaro, perché è probabile che in un primo passaggio queste tecnologie possano costare di più. L'investimento è sicuramente un parametro importante, però come ci siamo detti poc'anzi, io non calcolerei il ritorno dell'investimento, ma il forward dell'investimento. Qual è il ritorno che un investimento del genere avrà sulla popolazione in termini di sviluppo economico, sviluppo socio-economico, riduzione del digital divide, e quindi le piccole e medie imprese che possono accedere a servizi, possono vendere i loro servizi in maniera più efficiente, più diretta, senza troppi intermediari. E quindi l'investimento, il ritorno all'investimento non va fatto sul ferro o sulla quantità di apparati che noi mettiamo, ma sulla capacità di un'economia di crescere. È stato dimostrato che il Giappone, che è uno dei pionieri su queste tecnologie, ha un impatto probabilmente del 2-2,5% sul loro prodotto interno lordo, GDP, semplicemente dall'abilitazione di queste tecnologie, che sono numeri importanti se li andiamo a misurare. Anzi, molto importanti. Ricorderete il famoso progetto Ubiquitous Japan, U-Japan, che punta a diffondere la fibra ottica nel paese, e ci sono case, palazzi, persone con le quali abbiamo parlato che dicevano: beh, io nel mio palazzo ho un gigabit. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. 2024, in questa seconda parte del nostro programma, è nostro ospite Domenico Di Mola, che oggi è vicepresidente di Uplink in Silicon Valley. Si occupa, tu lo ripetiamo, insomma, ti occupi di fotonica, che è un settore molto importante. Adesso abbiamo parlato di fibra ottica e fino a questo punto ci siamo collegati alle città, alle infrastrutture, insomma temi di cui parliamo e parla, seppur poco, anche addirittura alla politica, quindi temi potremmo dire popolari. C'è però tutta un'altra parte del tuo lavoro altrettanto importante e che ha ricadute sulla vita di tutti i giorni, su strumenti che utilizziamo tutti i giorni, che ha a che fare sempre con la fotonica, ma stiamo parlando di cose molto più piccole, nascoste all'interno degli smartphone e di tantissimi altri, come dicono gli americani, device, terminali, strumenti. Certo, c'è tutto un settore della fotonica dove gli oggetti di cui stiamo parlando non sono più fibre, ma invece dei canali di rame useremo dei canali fatti in polimeri, in vetro, dove faremo passare il fotone, che saranno piccolissimi, potranno stare su un palmo di una mano o addirittura su un'unghia, dove l'interconnessione e l'elaborazione del segnale avverrà in ottica. Le ragioni sono sostanzialmente dovute alla necessità di aumentare la capacità di elaborare i nostri dati. Noi prima scambiavamo immagini e foto da un kilobit, ormai le nostre macchine, i nostri cellulari fanno foto da 10 megabit. E quindi la nostra voglia di scaricare, riportare a casa le informazioni, ma anche di avere accesso ai nostri database che risiederanno nelle nuvole della rete, fa sì che la capacità dei nostri apparecchi portatili o fissi a casa crescerà proporzionalmente. E quindi la necessità di avere dei mezzi di comunicazione efficaci, così come li abbiamo dovuti sviluppare per il trasporto delle informazioni, verrà quasi uno a uno trasportato sui nostri apparecchietti. Quindi possiamo pensare a un futuro in cui noi collegheremo il nostro cellulare, invece che con una porta USB, con una porta in fibra ottica, e il nostro oggetto entrerà nel mondo della fotonica e elaborerà all'interno otticamente, con un risparmio di spazio, ma soprattutto un risparmio di energia. Sì, questo dell'energia è un capitolo molto importante. Ci stai dicendo anche che la capacità delle batterie, perché poi diciamo il problema energetico è per l'utente finale collegato a quanto dura la batteria del tuo cellulare, che è insomma una condizione, una cosa che ci diciamo spesso: ah no, io ho un cellulare che dura 2 giorni, ah sei fortunato, pure io alla fine della giornata devo ricaricare la batteria. Ci stai dicendo che Questa potrebbe essere una soluzione perché le batterie non saranno più capaci, molto più capaci rispetto a quelle di oggi. Cioè la tecnologia ti in quel settore non si evolverà molto. Ti faccio un esempio semplice, no? Il tuo cellulare è collegato a una rete wireless, la rete wireless può trasmettere dati a 20 megabit. Tu per fare il download di un video devi tenere il cellulare full speed, sì, per 10 minuti. A velocità piena? Velocità piena 10 minuti. Il consumo della tua batteria sarà proporzionale alla velocità con cui trasferisci i tuoi dati moltiplicato per il tempo che sei collegato. Se io ti do a parità di spazio una macchina che per 10%, cioè quel video lo scarichi in un secondo, il rapporto tra il consumo della tua batteria è automaticamente determinato. Chiaro. Ed è quindi chiaro qual è il vantaggio di questo passaggio, e la fotonica sarà sempre più pervasiva nel nostro mondo. Immaginate una smart city collegata in fibra, dove tutti i sensori sono collegati in una rete in fibra e trasmettono in tempo reale i dati a una camera di controllo che è in grado di rielaborare e trasmettere al cittadino. È possibile solo se hai una rete capace, efficiente e poco costosa. Chiarissimo. Però non ci hai risposto sulla batteria. Anche se tu non ti occupi di batterie, noi possiamo sperare anche di avere delle batterie più performanti? O senza dubbio, le tecnologie delle batterie sono evolute e continueranno ad evolvere, ed è chiaro che... Però mi sembra che l'evoluzione sia più lenta rispetto alle tecnologie di cui ci stai parlando. Certamente, perché noi possiamo aumentare la velocità molto più rapidamente di quanto non si possa investire in una batteria. Più efficienza, sicuramente. L'altro pezzo, insomma, del sistema è la capacità di elaborazione. Tu ci stai dicendo che grazie a queste tecnologie l'elaborazione del dato sarà più veloce. Stai parlando di processori più veloci. Corretto. Beh, sappiamo che alcune tra le più grandi aziende produttrici di ASIC o di microprocessori hanno attività in corso ormai per l'interconnessione ottica. Sicuramente il futuro sarà di microprocessori collegati otticamente, e al loro interno inizieranno ad esserci anche pezzi di elaborazione fatta completamente in ottica. Senti, fino adesso noi abbiamo usato spesso il verbo al futuro, ma questo futuro quanto è lontano? Allora, per quanto riguarda le reti in fibra ottica, siamo all'oggi. Qui il problema è diffondere queste reti, ma qua bisogna mettersi d'accordo nei paesi, scavare e mettere la fibra. Per quanto riguarda invece questa maggiore capacità degli strumenti che abbiamo adesso, noi abbiamo fatto l'esempio dello smartphone, ma possiamo fare l'esempio di una TV o di qualsiasi aggeggio che abbiamo in casa, qualunque sensore che ha bisogno di essere collegato con il mondo esterno e comunicare e ricevere comunicazioni. Anche il frigorifero, le case intelligenti, le case... Allora, visto che di queste cose parliamo già da tanti anni, sicuramente l'evoluzione verso queste smart cities sarà molto molto lungo e lento, però di che numero di anni stiamo parlando? Ma guarda, per non guardare nella sfera magica e non fare previsioni, quello che noi sappiamo è che il traffico, la capacità di elaborazione dei microprocessori non potrà più essere sostenuta a questo ritmo di crescita per il 2015-2016. Cioè la famosa legge di Moore sballerà? Corretto. Quindi... è un problema non più, se vuoi, di visione o di strategia, è un problema tecnologico che va risolto, perché tutto il tema del computer clouding, tutto il tema dei super performance computer, quindi macchine che elaborano ad elevata velocità e devono essere quasi real time, è un tema che deve essere risolto e verrà risolto, perché i centri principali di ricerca e sviluppo delle grandi aziende hanno già dei prototipi in casa. Quindi posso annunciarti, posso confermarti che siamo in una fase di pre-ingegnerizzazione di questi prodotti, e quindi una fase di ingegnerizzazione è prevista nei prossimi 2 anni, ed è probabile che i primi prodotti vedranno la luce tra il 2016 e il 2017, se guardiamo le roadmap di queste grandi aziende. Quindi è un futuro, sì, ma alla quale ormai si vedono dei piani e degli investimenti concreti, e quindi non è più qualcosa da fumetto, ma è qualcosa che sta avvenendo in realtà. Senti, per concludere, visto che tu ti stai ritrasferendo nella Silicon Valley, sì, dopo aver girato un po' il mondo anche in altri luoghi, però negli ultimi anni hai lavorato insomma in Italia, qui vicino a Milano, sì, dove sì. Alcatel Lucent ha un centro ricerche. Alcuni mi dicono, l'hanno detto anche ai microfoni di Radio 24, che comunque in Silicon Valley c'è ancora il centro di ricerca del mondo. Poi sì. Si parla anche della Cina, ma molti dicono la frontiera è ancora in Silicon Valley. Insomma, la tua vision qual è? Che è corretto, diciamo, la Silicon Valley ha sviluppato questo DNA e ha questa capacità di innovazione, che è dato da un mix di fattori, sicuramente quello economico, sicuramente quello della massa critica, ma sicuramente quello degli scambi. Cioè la Silicon Valley è un posto dove si arriva, si va, si torna e quindi si miscela. E questo è un fattore determinante nello sviluppo delle tecnologie. Ci si muove da un'azienda all'altra. Io ho una storia in cui sono passato da un'azienda all'altra e quindi porto esperienze, raccolgo esperienze. E questo aiuta le aziende a crescere, ad innovare. Io in Italia sostanzialmente ho trovato un tessuto sia di ricerca ma anche di formazione importante. Abbiamo fatto prodotti e progetti che sono ancora unici al mondo, che ci hanno distinto a livello mondiale. E tu sai bene che in Alcatel Lucent noi abbiamo i Bell Labs. Quindi noi ci siamo confrontati con il loro know-how, con la loro capacità di innovazione e non ci siamo sentiti secondi, ci siamo sentiti partner. Probabilmente il problema dell'Italia è una focalizzazione. Questa l'ho percepita relativamente bassa. Cioè ho l'impressione che la ricerca sia stata lasciata non sola, ma non sia stata indirizzata. Questo è importante. E comunque, nonostante tutti i luoghi emergenti del mondo dove si fa ricerca, perché tutti ci provano naturalmente in tutto il mondo e in molti ne hanno compreso l'importanza, tu ritieni che ancora oggi la Silicon Valley sia il centro ricerca del mondo? Sì, senza dubbio, non avrei dubbi, non ho dubbi. Molto bene, io ti ringrazio per essere stato con noi. Buon in bocca al lupo per questa nuova esperienza negli Stati Uniti e magari insomma ci risentiremo o quando ogni tanto per forza dovrai tornare qui, insomma, anche per volentieri. Farti una piccola vacanza oppure anche grazie al telefono o altri strumenti direttamente dalla Silicon Valley. Grazie. Buon lavoro, a presto. Buon lavoro a tutti voi. Ebbene, noi ringraziamo Domenico Di Mola che oggi, come vi dicevo, è vicepresidente, vice president di Hoplink, una società che si occupa di fotonica in Silicon Valley. Lo ringraziamo. Tra poco noi cambieremo argomento, ci lasciamo per qualche minuto. Vi ricordo che questa è 2024, ci trovate ad un indirizzo di posta elettronica molto semplice, anche su Facebook, ma potete scrivere a 2024@radio24.it. A tra poco. 2024. Pensate se la maggior parte dei politici avessero compreso i benefici delle tecnologie di cui parliamo spesso a 2024. Abbiamo parlato poco fa, ma questo è un tema di cui parliamo spesso, di fibra ottica, di banda larga. Pensate se ci fosse una maggioranza favorevole alla diffusione di queste tecnologie e pensate se ci fosse una maggioranza che conosce bene il software libero, le opportunità messe a disposizione da questo ecosistema del software libero, o dirò di più, per la pubblica amministrazione ancor di più il riuso del software. Ci sono delle leggi che regolano e hanno diffuso questo riutilizzo del software, di tecnologie che vengono sviluppate per una pubblica amministrazione e possono essere riutilizzate gratuitamente senza alcun costo per i cittadini da un'altra pubblica amministrazione. Perché ogni comune deve avere il proprio sito internet, o meglio, certo, deve avere il proprio sito inteso come indirizzo e con una serie di informazioni esclusive per quel comune, ma perché la piattaforma tecnologica dietro deve essere diversa? Potrebbe essere condivisa da più comuni, certo non un'unica piattaforma nazionale, però molti comuni potrebbero associarsi, ma questo potrebbe essere utilizzato per tantissime cose e parleremo tra poco anche di questo. A proposito di software libero, lo ricordiamo, parliamo di quei programmi realizzati e pubblicati con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, di cambiare, personalizzare il software. Spesso il software libero è anche gratuito e per le aziende, la pubblica amministrazione, ma anche per i singoli utenti di computer ci possono essere dei vantaggi molto interessanti. L'importante è conoscere queste opportunità, valutarle e poi scegliere di conseguenza. Non è detto che sempre il software libero sia vantaggioso, sia superiore, ma ci sono parecchie opportunità. Ne parliamo perché in questo mese di marzo è nata ufficialmente, dopo una incubazione di parecchi mesi, la Document Foundation. Italo Vignoli è uno dei fondatori. Benvenuto 2024, ciao Italo. Grazie mille. Allora, abbiamo detto Document Foundation, sede a Berlino, una fondazione nata dalla comunità che sviluppa OpenOffice, che oggi è di proprietà di Oracle, dopo che Oracle ha acquistato Sun. Ricordiamo che OpenOffice è una suite di produttività individuale per l'ufficio, quindi software che si installa sul computer, si può scrivere, si fanno le presentazioni, si usano i fogli di calcolo, eccetera, eccetera. Contemporaneamente è nato un concorrente, chiamiamolo così, che si chiama LibreOffice, che è proprio quello che è sostenuto, sviluppato dalla Document Foundation. Italo, perché LibreOffice? Perché LibreOffice, sono stati esaminati 392 nomi e LibreOffice era l'unico che aveva i domini liberi. Ah, ecco perché. Perché uno potrebbe dire, non è un nome bellissimo. No, non è una... fa schifo, diciamocelo. Ah, okay. Sì. Però la comunità c'è accordo su questo. Pensate che su Office ci sono aziende che producono mobili da ufficio, che affittano uffici, che quindi i domini con Office erano tutti presi. Quindi è rimasto questo. È rimasto LibreOffice. Che comunque è un software del tutto analogo a OpenOffice, giusto? Allora, di fatto è l'eredità di OpenOffice. Quindi, che esiste ancora, OpenOffice esiste ancora, ha avuto poi una sua storia, in quanto Oracle, che in realtà non aveva nessuna intenzione di investire e aveva un contratto in essere con IBM sul codice di OpenOffice, ha donato il codice ad Apache Foundation e adesso OpenOffice viene sviluppato come progetto in incubazione da Apache Foundation. La realtà, purtroppo, e questa è un'opinione mia personale e della Document Foundation, è che questa sia stata una mossa fortemente voluta da IBM per poter continuare a fare il proprio software proprietario. Vabbè, sono questioni di IBM, ovviamente. Senti, tornando alla Document Foundation, stiamo parlando di una fondazione che è nata solo ed esclusivamente per sostenere lo sviluppo di LibreOffice o va un po' oltre, chiamandosi Document Foundation? Allora, in realtà, infatti, il nome Document Foundation è stato scelto proprio perché LibreOffice di fatto è la prima espressione di una strategia di sviluppo. Chiaramente i prodotti che noi in questo momento prevediamo sui quali prevediamo di lavorare, stiamo già lavorando, si chiameranno sempre LibreOffice, ma saranno una suite online, quindi analoga, se volete, a Microsoft Office 365, a Google Docs, anche se analoga e non uguale, quindi sì, questo sia chiaro. Fa le stesse cose, diciamo. Esatto. Così. E stiamo anche lavorando a una versione di LibreOffice per i tablet, che in questo momento è già stata testata su Android, anche se non è ancora disponibile perché l'interfaccia non è ancora quella giusta, però e quindi si sta lavorando in tre direzioni, non più in una sola. Sì. In più, c'è anche un investimento forte sui formati aperti e standard, e quindi che sono formati documentali, quindi il nome Document è proprio perché noi intendiamo lavorare intorno al documento, non intorno al software. Il software è una conseguenza del documento. Chiarissimo. Poi ti farò anche appunto una domanda sugli standard, la loro importanza. Tornando ai prodotti che voi effettivamente chiamate prodotti, stiamo però parlando di cose gratuite per l'utente finale. Certo. E come si sostiene tutto ciò? Diciamo che il software libero sposta l'attenzione dal costo del prodotto ha il valore aggiunto che c'è intorno al prodotto stesso. Quindi Il prodotto in sé è gratuito, quindi il software è gratis, si scarica, non si paga nulla, uno lo può distribuire gratuitamente e così via. È ovvio che non ci aspettiamo che l'utente, soprattutto un utente aziendale, lo installa gratuitamente, ma non ci aspettiamo che possa gestire 1000 desktop senza avere il contributo di un professionista che su questi 1000 desktop gli fornirà del valore aggiunto, supporto, soluzione dei problemi e così via. Il discorso è che nella nostra visione il valore a questo punto sta nella soluzione dei problemi o nella personalizzazione, l'adattamento. Esatto. Quindi cambia la prospettiva. Esatto. E tu dici tutta la comunità degli sviluppatori, delle aziende che poi fanno questi servizi per le altre società che usano questo tipo di software, contribuiscono alla nascita e alla crescita, esatto, di questi prodotti. Esatto, e devo dire nell'ultimo mese c'è stato un altro avvenimento molto importante, perché uno degli sponsor della Document Foundation è Intel. Allora, Intel è tradizionalmente vista come una delle due grandi aziende intorno alla piattaforma Windows, quindi software proprietario e così via, ma Intel ha deciso di entrare nell'advisory board e quindi di pagare, perché per entrare nel nostro advisory board si paga, per sostenere, perché ha capito che è un modello di sviluppo che per alcune tipologie di prodotto è non migliore, ma alternativo rispetto a quello proprietario. Esatto. Le aziende e la pubblica amministrazione utilizzano queste cose e soprattutto, dal vostro punto di vista, quali sono i vantaggi? Partendo dal nostro utente più illustre, diciamo dall'utente più illustre di software libero del mondo, è la Casa Bianca. Ah. Cioè, la Casa Bianca utilizza un'infrastruttura web totalmente di software libero. Il che significa che il sito della Casa Bianca è fatto con Drupal, tutta l'infrastruttura è fatta con Apache Web Server. È vero che non sono software a livello utente, però sono i software a livello server che tutte le organizzazioni utilizzano. Sì. A livello utente ti posso fare degli esempi. In Italia la regione Umbria utilizza OpenOffice e stanno passando in parte a LibreOffice. La provincia di Bolzano, stessa cosa. Alcuni comuni, Rovereto, Bollate, che tra l'altro è qui vicinissimo a Milano. Poi è ovvio che è difficile avere una panoramica, perché noi non abbiamo le attivazioni delle licenze. Chiaro, quindi la mappatura dell'installato è difficile. Anche quando parliamo di Linux parliamo di software libero. Assolutamente. Anzi, direi forse è il progetto principale in assoluto. Va detto che probabilmente se parliamo di Linux e parliamo di aziende, la percentuale di installato è molto alta, cioè sono a livello server altissima. Altissima. Quindi diciamo sono molte le aziende che utilizzano Linux per far funzionare i propri server, le proprie infrastrutture, i propri siti web, eccetera, eccetera. Siamo forse a percentuali molto basse se guardiamo al singolo utente. Sul desktop è ancora molto basso, credo che le problematiche qui siano due. C'è una diffidenza di fondo, sì, perché chiaramente Linux è un po' diverso da Windows. In realtà credo che i due sistemi ormai siano assolutamente confrontabili per almeno, diciamo, il 90%, per essere conservativi, il 90% delle funzionalità. Quello che trattiene le persone è la diffidenza. A me è successo un piccolissimo aneddoto. A me è successo di partecipare a una conferenza un po' di mesi fa e avevo con me un computer Linux. Di fianco a me c'era un signore che non aveva portato il computer e non aveva il computer per fare la presentazione. Io ho preso la sua presentazione in formato PowerPoint, l'ho caricata sulla mia macchina Ubuntu, l'ho caricata con LibreOffice, gliel'ho dato, lui ha fatto la sua presentazione e alla fine della presentazione si è reso conto che non aveva una macchina Windows con PowerPoint e mi ha guardato quasi spaventato, come per dire: ma cosa mi ha fatto fare? Io ho detto: guardi, lei la presentazione l'ha finita, quindi mi scusi, non le ho fatto fare nulla che non andasse bene. Dico: è andata bene, lei è andata avanti indietro con i tasti direzione come doveva andare, cosa voleva di più? Ma io non l'ho mai usato e oggi l'ha usato. Bene, io ringrazio Italo Vignoli per essere stato con noi, buon lavoro e anche in bocca al lupo alla fondazione. Grazie mille. Adesso una breve pausa, riprendiamo tra un minuto. 2024. Ascoltando quello che abbiamo detto sul software libero, uno potrebbe domandarsi chi usa queste cose. Beh, a livello aziendale moltissime sono le aziende che fanno funzionare i server, quindi poi di fatto fanno funzionare tutta l'azienda grazie a Linux e a molte applicazioni di software libero. Ma ci sono aspetti interessanti per la pubblica amministrazione, ma ci sono aspetti interessanti anche per le applicazioni di produttività personale. Sentite ad esempio un'esperienza che è stata fatta al comune di Bologna. In Francia e in Germania ci sono tantissime pubbliche amministrazioni che funzionano grazie a sistemi a software libero, ma vi raccontiamo un'esperienza fatta in Italia. Massimo Carnevali è un IT manager che oggi lavora alla Fondazione Edmund Mac di Trento, ma fino all'autunno era al comune di Bologna. Benvenuto a 2024, Carnevali. Grazie, buon pomeriggio. Ci racconta, Carnevali, quello che avete fatto al comune di Bologna? Beh, dunque, l'esperienza, quello che è stato fatto è stato lavorare essenzialmente, forse una delle prime esperienze di queste dimensioni, sul posto di lavoro dell'utente e andare a sostituire la suite di produttività individuale proprietaria con una suite libera. In particolare abbiamo utilizzato OpenOffice, che in quel momento era la suite di punta, in questo momento c'è OpenOffice o LibreOffice. In quel momento abbiamo scelto OpenOffice e è stato installato su tutte le 3600 postazioni dei dipendenti del comune di Bologna. In particolare su 2000 di queste postazioni è stato possibile rimuovere completamente le suite proprietarie e quindi ottenere un deciso risparmio sui costi di licenza, pur mantenendo la funzionalità completa per l'utente finale, consentendogli di lavorare esattamente come lavorava prima. Per quanto riguarda convincere la parte politica, devo dire che fortunatamente l'ambiente era già abbastanza ben predisposto nei confronti del software libero, c'erano già state prese di posizione. Uno degli elementi chiave sicuramente è stato quello di ovviamente del risparmio economico, che era abbastanza evidente, e del fatto che le spese che comunque si sostenevano per lanciare questo progetto, per fare la migrazione, per attivarlo, eccetera, anziché essere spese che andavano su licenze, erano spese su persone di personalizzazioni e quindi lavoro, investimento sul territorio. E questo è un qualcosa che comunque è sempre importante per una pubblica amministrazione. Certo, persone che lavorano sul territorio, che votano sul territorio, quindi insomma sono collegate anche alla comunità locale. In questo caso stiamo parlando di 2000 postazioni, quindi un risparmio in termini di licenze quantificabile in quanto? Beh, diciamo il costo medio di una suite di Office Automation con gli sconti per le pubbliche amministrazioni è intorno ai 100-120 euro a postazione. Quindi alcune centinaia di migliaia di euro. Sì. Senta, però al di là investimento circa di un decimo come costo di migrazione. Senta, al di là del risparmio, che comunque è importante, è un aspetto insomma che non va certo sottovalutato, soprattutto in questi periodi, quali sono gli altri vantaggi a suo modo di vedere che dovrebbero spingere non solo la pubblica amministrazione, qua stiamo parlando di pubblica amministrazione, dove forse ci sono molti più elementi che dovrebbero spingere verso l'adozione di software libero, però questo vale anche per le aziende, ma a suo parere quali sono gli altri vantaggi? Sicuramente la possibilità di svincolarsi dal fornitore, quindi poter avere un qualcosa che può essere liberamente gestito passato da un'azienda all'altra, e la grandissima apertura che offrono appunto questi software, quindi possibilità di fare personalizzazioni ad hoc, possibilità di creare delle soluzioni molto spinte in termini di necessità dell'utente finale, e quindi ovviamente di poter ottenere una soluzione molto ritagliata sulle necessità dell'utente, grazie alla libertà. Oltretutto l'utilizzo dei formati aperti consente anche di dare una maggiore durevolezza dei dati, nel senso che i dati in formato proprietario, ovviamente nel momento in cui l'azienda che li produce dovesse mai fallire, non diventerebbero inutilizzabili. Tutto quello che è in formato aperto invece rimarrà sempre a disposizione, visto che i formati sono aperti e documentati, e questi sono vantaggi non da poco, secondo me. Senta, se lei guarda al territorio italiano e guarda le aziende fornitrici di soluzioni costruite su software libero, ci sono, diciamo, c'è un buon numero anche in termini qualitativi di fornitori o pochi? Assolutamente un buon numero e in crescita. Ah, quindi andiamo sul sicuro? Sì, anche perché anche le grosse aziende ormai hanno capito che l'utilizzo del software libero gli consente poi alla fine di poter rivestire, personalizzare il software per l'utente finale a costi minori, non avendo una tassa di ingresso legata alla licenza. Quindi anche le più grosse aziende software ormai propongono quasi tutte soluzioni basate su software libero. Senta, e la pubblica amministrazione, dall'esperienza che lei ha fatto fino a pochi mesi fa, ha capito, compreso, c'è qualche cosa che si sta muovendo? Insomma, quali sono le dimensioni del fenomeno? Ci sono anche delle esperienze interessanti e di grandi dimensioni? Sì, ci sono esperienze di grandi dimensioni, io diciamo conoscenza solamente di alcune realtà con cui ho lavorato, sia in questa esperienza Comune di Bologna che in momenti successivi e precedenti, però sia in Toscana, in Piemonte, in Emilia-Romagna, anche in Friuli ci sono grossissime esperienze. Sia in ambito di software che in ambito di creazione di agglomerati, di comuni, di enti piccoli che utilizzando il software libero possono costruire applicazioni e riutilizzarle in maniera molto semplice a bassissimi costi, cosa che ovviamente con software proprietario non è possibile perché la licenza è vincolata all'utente che l'acquisisce. Ecco, lei ha citato una parola chiave, una parola che a me piace molto, perché visto che ritengo che la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni sprechino ancora un sacco di soldi, il riutilizzo del software, che vuol dire poi condividere una cosa che è già stata creata, e il software non è come l'automobile, che se la guido io non la può guidare lei, il software lo possiamo usare entrambi contemporaneamente, ecco, il riutilizzo darebbe moltissime possibilità anche in termini di risparmi economici. Da questo punto di vista, diciamo, il riutilizzo lo si può fare solo con software libero, giusto? Assolutamente, perché è implicito nella licenza. Nel momento in cui ho una licenza che chiude i diritti di poter riutilizzare il software, di poterlo modificare, ovviamente non può essere ceduto a un'altra amministrazione. Senta, lo si fa? Cioè le pubbliche amministrazioni si scambiano queste esperienze? Spieghiamo agli ascoltatori per farci capire. Riutilizzare un software vuol dire che se lei sviluppa per me, comune di Pinco Pallino, un software per fare le buste paghe dei dipendenti, un altro comune può riutilizzarlo senza spendere una lira. Assolutamente. Vi posso citare un esempio personale che abbiamo fatto con il Comune di Bologna assieme al Comune di Udine, per esempio tutto il sistema di gestione degli inventari del materiale informatico è stato sviluppato dal Comune di Udine, un software che è stato messo a disposizione in riuso, che abbiamo preso dal Comune di Bologna, è stato adattato molto rapidamente, molto semplicemente, ma è stato riutilizzato completamente il codice che era stato sviluppato dal Comune di Udine. Altri esempi molto recenti, per esempio la Regione Emilia-Romagna, tutto il tema della conservazione sostitutiva dei documenti, quindi passaggio dal formato cartaceo al formato digitale, ha sviluppato una serie di software per la gestione della documentazione in formato digitale in maniera corretta e conforme alla normativa, e questo software so che in questo momento è in fase di riuso da parte della Regione Liguria. Ci sono numerosi di questi esempi di mi passo il termine inglese, di best practice sul territorio. Grazie un po' al portale del riuso che mette a disposizione un catalogo, un listino per le pubbliche amministrazioni di tutto quello che è riutilizzabile, ma molto spesso forse un po' all'italiana quello che funziona è anche un po' il tam-tam interno, per cui ci si trova un qualche congresso, un qualche convegno, ci si scambiano queste esperienze o anche semplicemente tramite social network si viene a sapere di un'esperienza già svolta da qualcuno, e se il software è stato concepito in ottica di riuso, molto semplicemente viene passato da un'amministrazione all'altra riducendo fra l'altro, cosa molto importante, anche quella che è introducendo una semplificazione amministrativa, perché ovviamente non devo stare a ripercorrere tutta una strada, un iter amministrativo che qualcun altro ha già percorso per me. Certo, copio e incollo anche quello. Copio e incollo anche quello. Senta, se ho capito bene, uno oggi se vuole fare una pubblica amministrazione, vuole fare un'applicazione, adesso vi ho fatto l'esempio delle buste paghe per i dipendenti, ma ad esempio non so, un'applicazione web per far pagare le multe ai cittadini, per erogare servizi di altro tipo via web, potrebbe cercare prima di tutto sul portale del riuso e magari trova già la soluzione già fatta, già pronta, con un po' di personalizzazione la si mette in piedi, oppure potrebbe obbligare, chiedere alle aziende che forniscono software per fare questo tipo di applicazione di concedere la possibilità poi di riutilizzare questo software e così un'altra amministrazione potrebbe riutilizzarlo. Assolutamente, in fase di stesura del bando di gara il codice di amministrazione digitale prevede per la pubblica amministrazione, raccomanda che il software che viene prodotto venga poi messo a disposizione sotto forma di riuso. Ovviamente è una raccomandazione nell'ambito poi della libertà delle singole pubbliche amministrazioni, in questo momento non è un obbligo e quindi non sempre viene adottato, però questa raccomandazione è molto spesso recepita e quindi viene richiesta esplicitamente software che poi possa essere riutilizzato. Guardiamolo in positivo, non essendo un obbligo, lo Stato dà la possibilità ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni di cambiare le cose dal basso. Assolutamente. Assolutamente. Carnevali, la ringrazio e le auguro buon lavoro, a presto. Prego, a presto. Ed è tutto per questa puntata, come sempre vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordo che tra poco questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, abbonatevi e scaricate il file della nostra trasmissione per riascoltarci durante la settimana e anche per passare magari il file a un vostro amico, segnalare la nostra trasmissione ad un politico di una piccola amministrazione, di una media amministrazione o di una grande amministrazione perché ad esempio metta in pratica quello che abbiamo raccontato oggi. Ci trovate anche su internet, sul nostro sito internet, oppure potete scrivere un'email a 2024@radio24.it, quindi 2024 in cifra @radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, oppure potete seguirmi su Twitter, Enrico Pagliarini. Grazie come sempre per la collaborazione di Anita Panizza in redazione, dei nostri tecnici. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui tra le 15.30 e le 17. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.